Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati a tutti in studio Mirko Cavallini, nuovo appuntamento con il mondo della scuola e in questa settimana in particolare con l'UCIM, l'Unione Cattolica degli Insegnanti di Scuola Media, come si chiamava una volta, adesso non si chiama più così. Troviamo allora Adriano Morandin e Maria Grazia Cuzziol, benvenuti ad entrambi o bentornati. Grazie. Grazie. Allora, nei prossimi giorni c'è un appuntamento nazionale importante per quanto riguarda la vostra associazione. Sì, ecco, così precisiamo un attimino quello che ha detto Mirko in questo momento. L'UCIM, che era prima Unione Cattolica Insegnanti Medi, ora diventa Associazione Professionale Cattolica di Insegnanti, Dirigenti e Formatori. Abbiamo allargato, diciamo, è aumentato le persone, le professionalità, il raggio d'azione diciamo, sperando che questo renda sensibile anche la partecipazione. Ecco, sì. Dicevamo c'è questo appuntamento dei prossimi giorni. C'è questo appuntamento che è il 24esimo congresso nazionale che si terrà a Roma, a Tivoli in maniera specifica, che ha come titolo proprio un titolo molto contingente alla situazione, oltre la crisi. E anche di buon auspicio, direi, perché siamo in piena crisi, ma noi stiamo guardando oltre la crisi. La scuola in dialogo, ecco, questo congresso vuole proprio vedere un po' la scuola in dialogo con il territorio formato dalla famiglia, la chiesa in particolare, le istituzioni del territorio. Il dialogo lo chiamiamo noi dei non luoghi, cioè il dialogo con tutti questi mezzi di comunicazione, con i social network, con internet e così via, che sono specifici strumenti di comunicazione dei nostri ragazzi, con la scuola che dialoga, non dimentichiamo che deve dialogare con se stessa senza essere autoreferenziale, e l'associazionismo che dialoga con se stesso anche e con l'esterno. E allora cerchiamo di analizzare appunto in questo spazio proprio questi cinque aspetti. Cominciamo dalla famiglia. Si interroga sul rapporto educativo fra i docenti e gli alunni e con docenti e alunni e, come dicevo prima, con la famiglia, perché io sono del parere che comunque l'anello più importante è effettivamente la famiglia dove avviene la vera educazione in parallelo con la scuola, però la prima educazione avviene nella famiglia che comunque è una famiglia che sta cambiando, non solo ma molto velocemente, e che purtroppo fatica ad avere un incontro, diciamo anche in maniera critica, lasciatemelo dire, con una scuola che invece è più lenta, si muove più lentamente. La famiglia molto più velocemente cambia, la scuola molto più lentamente. E di conseguenza fa fatica, arranca per arrivare ad avere un dialogo costruttivo con questa. E quindi è difficoltoso e molto difficile dal punto di vista umano e dal punto di vista didattico questo confronto. E la famiglia, che non dobbiamo negarci, diventa una famiglia molto spesso monogenitoriale, è quella donna di solito che tiene le redini della famiglia, quindi qui non apriamo, ma ci sarebbe un dibattito molto vasto. Ecco. E il ragazzo che entra all'interno di queste realtà, quindi con dei disagi, con delle difficoltà, con delle situazioni critiche che molto spesso la scuola non è in grado di, anche per la mole, diciamo, di compiti, di incombenze che ha la scuola, di riuscire ad aiutare. Ecco, vorrei aprire una parentesi a proposito di questo. Noi come UCIM provinciale di Treviso abbiamo un po' abbiamo lavorato e collaborato, programmato e dibattuto questo problema di collaborazione tra la scuola e la famiglia in un convegno provinciale del 6 novembre. E qui si è parlato della collaborazione tra genitori e scuola, e una collaborazione che dovrebbe diventare costante nel tempo. A tal proposito, c'è stata la presenza poi operativa di persone, di docenti, di genitori che hanno portato le loro esperienze positive proprio all'interno della realtà trevigiana. Ecco, poi il dialogo con la famiglia non è solo nel momento in cui i genitori incontrano gli insegnanti per vedere come va il bambino, l'alunno, non è solo questo. No. In particolare, ecco, quel giorno c'è stata la presenza dei genitori del liceo scientifico che ci hanno dato, che ci hanno portato il loro contributo, e veramente è stata una, diciamo, una ventata anche di ottimismo e di speranza, insomma, perché nonostante tutti questi problemi che abbiamo continui, insomma, una certa sensibilità dei genitori, specialmente nel biennio, ecco, si nota sempre all'inizio di un ciclo scolastico, dopo all'inizio dei primi anni, come avviene nelle elementari, nelle medie, nel biennio, oppure anche all'inizio del triennio, poi una certa stanchezza perché ormai la barca va, sembra che vada, ma insomma, e quindi mi intrometto, scusate, e invece quando la barca va, il rischio è che la barca vada troppo lontano, affondi e non riusciamo senza più guida a prenderla. Sì, difatti è questo uno dei problemi che dibattiamo, che abbiamo dibattuto ancora gli anni precedenti, quando gli organi collegiali almeno funzionavano come si era immaginato, come si era progettato, insomma. Ecco, allora, questo sarà uno dei temi al centro del convegno nazionale. Tra poco, dopo la pausa, cominceremo a toccare anche gli altri aspetti. Restate con noi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Anche solo per un attimo, ma sai che ci ho creduto in noi. Ma io vivo nel ricordo che sgomitando si fa spazio in me di un amore che purtroppo non sei te. Dolce stella, non tremare, ci ho provato. Oh, potessi tu sorprendermi. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Di nuovo insieme con questa puntata dal mondo della scuola, stiamo parlando dell'imminente congresso nazionale dell'UCIM, partendo dai temi che saranno al centro del dibattito dal 6 al 9 di dicembre, appunto nei prossimi giorni. Adriano, tocchiamo ora un altro argomento, Adriano Morandin, il dialogo, perché sono tutti dialoghi, appunto l'UCIM in dialogo con varie realtà, tra cui ovviamente non può mancare la Chiesa. Sì, questo è un dialogo veramente fondamentale, diciamo che è spontaneo e naturale, è la linfa vitale in pratica anche per le nostre associazioni. Ecco, noi partecipiamo anche a quel progetto, chiamiamolo progetto, però anche è una lettera della CEI che era educare alla vita buona del Vangelo, orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio attuale. Ecco, questo è uno degli argomenti, diciamo, che vengono sempre toccati nei nostri incontri, sia a livello, diciamo, religioso, spirituale, sia a livello professionale, anche qui perché cerchiamo di fare la sintesi fra la formazione spirituale, religiosa e la formazione professionale, e questo è un punto, diciamo, che sempre è alla nostra attenzione. C'è il Tra i compiti della Chiesa c'è la cura del bene delle persone nella prospettiva di un umanesimo integrale e trascendente, la famosa formazione personalistica. Insomma, questa è una nostra attenzione continua, e facciamo riferimento sia alla Chiesa, diciamo, come istituzione, alla Chiesa nazionale, sia alla Chiesa locale, alla diocesi in particolare, perché l'UCIM negli anni precedenti, qualcuno forse è bene mettere anche a fuoco questo aspetto, era a livello diocesano come altre associazioni cattoliche, poi con gli organi collegiali, con il discorso delle elezioni provinciali eccetera, regionali, abbiamo cambiato lo statuto e siamo diventati a base provinciale, però la base diocesana, il riferimento diocesano è rimasto ed è vitale per tutte le associazioni e per tutte le sezioni, perché noi ci articoliamo con sezioni e province, e quindi le sezioni fanno riferimento alla diocesi, quindi alla formazione, diciamo, nella consulta, e nella consulta della pastorale scolastica, nella consulta diocesana generale dell'apostolato dei laici. Ecco, personalmente partecipo sia alla consulta della pastorale scolastica sia alla consulta della pastorale dei laici, della consulta dei laici, perché viviamo la problematica nel suo insieme con tutte le varie associazioni, siamo una trentina, associazioni di ispirazione cristiana. Ecco, poi di quello parleremo dopo. Volevo capire questo tema, appunto, della Chiesa, dell'educazione, che sappiamo i vescovi hanno messo al centro, che cosa c'entra, come può centrare appunto con gli insegnanti? C'entra sì, perché questo è il punto, deve permeare un po' la vita quotidiana dell'insegnante, cioè noi teniamo contatti e cerchiamo di diffondere un po' le nostre iniziative con il mondo cattolico, però cerchiamo di andare anche al di fuori di quelli che conosciamo normalmente per i nostri canali soliti. Non è una cosa facile, parlavamo anche prima così in modo informale, perché gli insegnanti sono sempre più oberati di tante iniziative, di tanto lavoro. Adesso sono aumentati anche gli alunni per classe, sono aumentate le incombenze e le riunioni, e quindi gli insegnanti si trovano insomma nell'impossibilità qualche volta di partecipare, però hanno piacere a ricevere un giornale, ricevere delle comunicazioni, essere collegati in internet, vedere le nostre iniziative, sapere che ci sono gli incontri, mandare qualche sintesi, leggere qualche articolo, insomma sentirsi collegati in rete, il minimo è questo, insomma, perché l'associazione ha questa funzione, passare dalla singolarità, dal singolo insegnante a noi, alla collegialità. È un discorso che penso sia veramente di attualità al giorno d'oggi. Sì. Aggiungerei questo, che l'aiuto, diciamo, che l'UCIM può dare, ma diciamo sono d'accordo con Adriano, passiamo dall'io al noi, perché purtroppo si sa che l'insegnante è abbastanza egocentrico e autoreferenziale molto spesso, quindi dobbiamo togliere un po' questo aspetto e cercare di valutare, di vedere, di lavorare insieme sulla centralità della persona. È un, diciamo, un po' un abuso che facciamo di questo, però in realtà chi fa questo mestiere, chi lavora in questo settore, sa che comunque l'obiettivo principale, la finalità principale è proprio quella della centralità della persona, del bambino piccolo, dall'infanzia fino alle, diciamo, alla maggiore età, direi anche fino all'università, perché questo non toglie che i nostri ragazzi che frequentano l'università non siano considerati come centro proprio del nostro intervento. Dialogo con la famiglia, dialogo con la Chiesa, dialogo anche con le istituzioni civili e con il territorio, il terzo percorso, no? Questo è un altro problema, diciamo così, della comunità, dell'associazione, che dialoga con la scuola, però con tutto l'intreccio, con tutta diciamo, la rete di relazioni che la scuola ha con insegnanti, con il mondo diciamo così, dei genitori principalmente, ma con tutto anche il mondo del disagio. Parlavamo prima del disagio di molti alunni che arrivano e che vengono sostenuti come è possibile, perché le classi aumentano, come dicevamo prima, gli alunni, gli insegnanti di sostegno non sempre coprono le ore in modo adeguato, e quindi abbiamo anche la relazione con tutto il mondo delle equipe socio-psicopedagogiche, si chiamavano una volta, adesso hanno cambiato nome, però la relazione è sempre quella, quindi hanno anche loro il loro compito di supporto e di aiuto, di stimolo, e nello stesso tempo anche di verifica del lavoro svolto, che non è una cosa molto... Poi c'è tutto il dibattito se l'insegnante di sostegno è insegnante di sostegno dell'alunno singolo oppure della classe nel suo insieme, quindi di tutto il corpo docente e anche qui di tutto il collegio dei consigli di classe. Anche qui il problema è aperto, cioè l'utilità dell'insegnante di sostegno, ecco, questo è un discorso che è sempre da approfondire, insomma. Sì, Maria, direi anche proprio questo, no? Ho parlato prima un po' della famiglia, delle caratteristiche della famiglia, che un lavoro prima di parlare dell'equipe, prima di arrivare all'equipe, il lavoro nostro, diciamo, di educatori in generale, dall'insegnante ad altri educatori, è quello della prevenzione. Prevenzione in una realtà familiare, in una realtà sociale, che è quella che conosciamo tutti. Quindi io direi proprio il lavoro di prevenzione, perché si sa benissimo che il momento in cui c'è l'ammalato, tra virgolette, non bastano tutti quei supporti socio-psicopedagogici che noi abbiamo, sono una piccola cosa, perché si diceva appunto in un incontro con il CTI, il Centro Territoriale dell'Integrazione, il responsabile diceva che addirittura abbiamo un operatore ogni 1000 ragazzi, quindi è una cosa impossibile, una cosa inimmaginabile, quindi il lavoro grosso dovrebbe essere fatto precedentemente. E anche su questo appunto vi confronterete nel convegno nazionale. Ultima pausa e poi facciamo una panoramica sugli ultimi due argomenti. Dal mondo della scuola. Sharp day, when the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you, and can you feel it is where we are. It's enough for this wild. bonds, leave the fairy bed. There's a time for everyone if they only learn that the twist and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe. Ultima parte di questa puntata è dedicata ai temi del prossimo convegno nazionale dell'UCIM sul tema Oltre la crisi, la scuola in dialogo, 5 percorsi a confronto con la famiglia, la chiesa, il territorio, le istituzioni e anche Adriano Morandini, anche con i cosiddetti non luoghi. Cosa sono? Non luoghi è un'espressione che è stata così nominata da un sociologo contemporaneo, che voleva intendere quei luoghi che sono astratti, diciamo così. Inizialmente si pensava anche alle grandi autostrade, alle grandi stazioni ferroviarie che si assomigliano alle incroci delle metropolitane, eccetera. Però dopo, oltre a questo, si è passati anche ai non luoghi virtuali, cioè il mondo di internet, in pratica il mondo del mondo delle comunicazioni così non visibili momentaneamente. Ecco, qui entriamo in una grande novità, il mondo, il villaggio globale, si potrebbe dire, perché noi dalla nostra casa possiamo collegarci col mondo intero. Non solo da casa, anche da un apparecchio in tasca. È chiaro. Allora, l'immediatezza appunto adesso è diventata una cosa veramente stupefacente, perché è imprevedibile. Siamo passati dall'uomo sapiens, qualcuno ha detto, all'uomo videns per la televisione, adesso siamo passati all'uomo sapiens, adesso passiamo anche all'uomo che continuamente è aggiornato e collegato col mondo intero. E allora questa è la, diciamo così, è una opportunità, non possiamo vedere solo l'aspetto negativo. I ragazzi su questo sono veramente pronti, molto più attenti e, diciamo così, preparati, quasi c'è l'espressione nativi digitali, perché quel mondo di internet loro hanno una dimestichezza veramente notevole, insomma. Quindi questa media education, che ognuno adesso è diventata una nuova proposta, educazione ai media, educazione al mondo della comunicazione veloce, è una istanza anche entrata nel mondo della scuola e portata avanti anche da un'altra associazione vicina al nostro mondo, che è l'IART, che qualcuno ha sentito nominare, che verrà anche nominata in qualche altra occasione. Fa parte anche l'IART delle associazioni associazioni del mondo della consulta dei laici, perché si occupa appunto della comunicazione e quindi è veramente una, diciamo, una novità e una, ed è permea ormai il mondo dei giovani. Abbiamo fatto anche noi recentemente un convegno su questo discorso, perché il mondo di internet è veramente di interesse vitale per i ragazzi. Non so se la collega vuole... a proposito di questo, infatti in quel convegno di cui vi parlavo prima, un convegno provinciale UCIM tenuto il 6 novembre, c'è stata proprio la presentazione, direi non la presentazione perché già da tempo è attivo, ma il confronto con il progetto QUERT, che è un progetto che è nato proprio a Treviso, controllato, voluto sia dalla scuola che dall'ULS, ecco perché parlavo prima di prevenzione anche. Che aiuta i ragazzi delle scuole medie di primo grado, ma anche delle scuole superiori, ad imparare insieme a partecipare positivamente alla vita di social network. Social network che sono così molto utili da tutti i punti di vista, però come in tutte le cose devono essere usati bene, devono essere controllati. Si sa benissimo che i ragazzi, come gli adulti del resto, li usano bene, li usano male. Ecco, questo progetto vuole proprio unire, vuole proprio far capire a questi ragazzi il modo con cui possono essere usati e non solo questo, ma proprio anche la finalità, che è quella anche di unire le persone, persone che hanno anche bisogno di conoscersi. Quindi è proprio tipico di relazionarsi in maniera positiva. Chiaro. Tocchiamo in un paio di minuti, ce la facciamo, l'ultimo aspetto su cui appunto ci sarà il confronto nel convegno nazionale, l'UCIM e la collegialità, cioè dialogare all'interno ma dialogare anche all'esterno. Eh sì, il famoso con chi? Intra ed extra, cioè l'UCIM è un'associazione che chiaramente nel proprio interno ha un proprio dibattito per elaborare le nuove proposte. Adesso per esempio, con tutte le novità che ci sono anche dal punto di vista organizzativo, amministrativo, la provincia, le che vengono unite eccetera, si tratterà anche di vedere come strutturare, come fare qualche modifica allo statuto nazionale e quindi cercare di tener conto delle varie esigenze, perché l'Italia è lunga, come noi abbiamo sentito dire tante volte. E allora questa relazione col mondo, al proprio interno, però anche all'esterno, con le altre associazioni, con le associazioni che, come dicevo prima, sono vicine a noi per vari motivi, e che tipo l'AIMC, tipo l'AGE, l'Associazione Genitori, tipo l'AIRD, tipo i laureati cattolici, cioè quelle persone con cui noi abbiamo quella maggiore affinità per tematiche simili nella progettazione del nostro programma annuale e anche per gli approfondimenti dal punto di vista culturale. E quindi anche lì dialogo con queste associazioni vicine a noi, però non solo quelle vicine a noi. Questa è un po' la tensione che abbiamo in questo periodo. Sì, direi che comunque la l'UCIM, come sempre stato, cerca proprio delle alleanze educative che vanno al di là dell'associazionismo e che prendono un po' tutte quelle che sono le realtà della vita, le realtà sociali. Allora, il tempo purtroppo è passato, io ringrazio i miei due ospiti, appunto dell'UCIM, come certamente avrete capito, Maria Grazia Guzzolo e Adriano Morandin. Dal 6 al 9 dicembre a Tivoli il congresso nazionale Oltre la crisi, scuola in dialogo. Grazie per la vostra presenza e alla prossima. Grazie a voi. Grazie. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.